Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, con voi come sempre appunto Sebastiano Barisoni, e stiamo trasmettendo anche da oggi da Taormina per la seconda giornata di lavori del Forum di Confagricoltura. Abbiamo parlato di vari temi anche che riguardano il mondo agricolo con due grossi esponenti del mondo bancario. Oggi è stata infatti in qualche modo anche la giornata del mondo bancario. Mi riferisco, da un lato, ne parleremo più avanti, con il presidente del gruppo Banco Popolare Carlo Frattapasini, che sarà nostro ospite, e prima ne abbiamo parlato anche con l'amministratore delegato del gruppo Intesa San Paolo, Corrado Passera. Chiaramente non solo di agricoltura, di banche, di rapporto con le piccole e medie imprese, di credito, di ruolo delle fondazioni bancarie. Giornata oggi che si sviluppa sostanzialmente su due fronti. Sul fronte finanziario di casa nostra ci sono numerose dichiarazioni in merito alle vicende generali. Oggi infatti vi è stato il comitato nomine, è iniziato intorno alle 15:30 il comitato nomine nella sede di Mediobanca. Adesso vi riassumeremo in breve alcune delle dichiarazioni uscite. Non c'è nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna nota ufficiale sul futuro, diciamo, vertice di Mediobanca. Per quello che riguarda invece i mercati, la giornata e quindi anche la settimana va a chiudersi in maniera abbastanza neutra. Milano guadagna lo 0,1%, Parigi perde lo 0,2%, Francoforte lo 0,1%, sempre come calo. Londra è la peggiore, mezzo punto percentuale di calo. L'America guadagna invece mezzo punto. Tra i titoli però si segnala da un lato Unicredit più 2,90%, ma dall'altro Unipol oggi diffusi dati, meno 7,60%, pesante quindi il calo dopo i conti, che chiaramente non sono piaciuti al mercato, così come non sono piaciuti quelli di Fondiaria Assai, che è il secondo titolo peggiore tra quelle a maggiore capitalizzazione, perde il 5,90% in questo momento. Parleremo anche della Fiat, perché oggi è intervenuto sia il presidente Montezemolo ma anche il ministro delegato Sergio Marchionne all'assemblea degli azionisti Fiat, e ha detto, insomma, contro di noi c'è un tiro al bersaglio, nessuno, e la si smette di dire che viviamo alle spalle dello Stato. E poi su Termini Imerese si è detto disponibile anche se diciamo, tra le varie priorità vi sono iniziative industriali con una forte vocazione automobilistica. Ha detto noi collaboreremo anche se vi sarà, di fatto traduco io, un insediamento di carattere sempre automobilistico nella zona di Termini Imerese. Ancora parleremo appunto di banche, piccole imprese, della Fiat e della vicenda generali. Subito però partirei con alcune notizie in breve, tra cui i conti diffusi oggi, non solo Unipol e Fondiaria, anche il gruppo Saras. Devo solo ricordare la cifra, come sempre, che è quella per i vostri sms, il numero è 349-238-6666. Allora le notizie in breve. Partiamo dal petrolio, petrolio poco mosso oggi, $81 al barile. L'euro, ci chiedete giustamente, al 349-238-6666. Allora, ieri abbiamo dato in diretta praticamente la notizia dell'accordo tra Francia e Germania, quindi l'accordo per il salvataggio della Grecia, accordi bilaterali e sullo sfondo soprattutto il ruolo del Fondo Monetario Internazionale, che non piace la Banca Centrale Europea. Oggi è tornato sul tema, è tornato a ribadire il no a questa soluzione il membro italiano del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, Lorenzo Benismaghi, ha detto: la soluzione trovata per la crisi greca con il coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale non è la soluzione ideale né quella migliore. La BCE da sempre si era detta contraria a un ingresso del Fondo Monetario Internazionale nel cordone di salvataggio per la Grecia. Soddisfatta invece Angela Merkel, il cancelliere tedesco, ha detto si tratta di una dimostrazione della solidarietà che c'è nell'area euro. Il presidente della Commissione Europea Barroso ha detto: spero che i mercati a questo punto si basino sui fatti. secondo le stime, ricordo, dovrebbe consentire alla Grecia questo accordo di trovare in tutto fino a 22 miliardi di euro, accordi bilaterali e finanziamenti aggiuntivi del Fondo Monetario Europeo. Devo dire che i mercati sono mossi molto poco quanto mercati valutari, nel senso che sul dollaro l'euro ha recuperato, ma veramente una quantità risibile, siamo a 1,34 invece che 1,3380, non è storia. Sul franco svizzero invece siamo sempre ai minimi storici, l'euro è 1,4283 e non si schioda da questa soglia, che è la più interessante forse, visto che in questo momento il vero benchmark, il vero riferimento è il franco svizzero per capire la debolezza o meno dell'euro. Il Portogallo, ce ne siamo occupati 3 giorni fa, oggi un'altra grande agenzia di rating, Standard & Poor's, ha invece confermato il voto sul Portogallo, A+, questo è il rating, ha mantenuto però anche le prospettive negative per il futuro, come fece 3 giorni fa l'altra agenzia di rating, Fitch. Allora, la vicenda generale, vediamo un po' che cosa è successo. Andiamo a ritroso, a gambero, alle 3:30, alle 15:30 per la precisione, è iniziato il comitato nomine di Mediobanca. Prima della riunione si è tenuto l'atteso confronto tra il presidente di Mediobanca Geronzi, considerato, ormai l'avrete letto da tutti, il candidato più forte per la presidenza delle generali, e l'amministratore delegato Alberto Nagel, di Mediobanca, cui spetta il compito di proporre la lista per il rinnovo delle generali. Infatti Mediobanca è il primo azionista delle generali, ha il 14,7%. Allora, nel frattempo erano uscite un po' di agenzie ed indiscrezioni. L'ADN Kronos aveva battuto già ieri in serata un'ipotesi di un altro anno di presidenza Bernheim, l'attuale presidente delle generali, con una vicepresidenza operativa affidata a Cesare Geronzi. Bolloré, che praticamente è uno degli importanti azionisti di Mediobanca, Vincent Bolloré, ha detto: beh, Bernheim resta il mio candidato preferito, è vero che è anziano, ma anche Cuccia era anziano, in fondo anche Cuccia aveva 94 anni quando era ancora alla guida di Mediobanca. Poi però Bolloré ha dichiarato: non so se Bernheim sia ancora in lista, nella lista delle candidature. E poi ha aggiunto: in caso di nomina di Cesare Geronzi a presidente delle generali, l'attuale direttore generale delle generali, Renato Pagliaro, fa parte delle persone ragionevoli da mandare avanti. Nessun commento invece a partire dal diretto interessato sull'ipotesi che la soluzione si trovi attraverso la figura di Tommaso Padoa-Schioppa. Non ha voluto commentare infatti le ipotesi circolate ieri di una sua eventuale nomina o candidatura alla presidenza del generale. E questa era l'ultima delle nostre notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, visto che ieri abbiamo aperto il programma con un, anzi devo dire in questi giorni, notizie sulle difficoltà della nostra industria, dell'export, il dato sull'occupazione, oggi per fortuna arriva una notizia e soprattutto una stima di un segnale di risveglio, di recupero, soprattutto della produzione industriale. Eh sì, la stima la fa il Centro Studi di Confindustria, la produzione industriale italiana sembra aver trovato uno slancio più significativo, più robusto nei primi 3 mesi dell'anno, dopo il balzo, lo ricorderete forse, di gennaio. Questo è un dato molto importante per capire se dopo una frenata del PIL italiano a fine 2009 in realtà si riuscirà a recuperare questo ingresso lento, molto lento, nel 2010. E allora chiedo conferma e lo ringrazio come sempre per la disponibilità al direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi. Luca, essendo un collega del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti voi. Giustifico il tu per questo motivo. Allora, la stima che voi avete diffuso oggi sul primo trimestre quanto a produzione industriale, a quanto arriva? Più 2,6% nel primo trimestre rispetto al meno 0,6% registrato nel quarto trimestre del 2009. Questo significa ovviamente che avremo un rimbalzo, un probabile rimbalzo del PIL, non è sufficiente purtroppo a compensare la caduta nel senso che la caduta di fine anno non tanto nelle variazioni, meno 0,3 era stata quella caduta, quanto perché comunque quel trascinamento ce lo porteremo avanti per tutto l'anno e inciderà sulla media. Abbiamo qualche così, come dire, ottimistica indicazione legata al fatto che sebbene con ritardo l'euro meno forte potrà aiutare a dare più slancio alle nostre esportazioni, che in effetti dopo un lungo periodo di stabilità sui bassissimi livelli toccati durante la recessione cominciano a dare qualche segnale di seguire il commercio internazionale. E questo è l'elemento più importante. Ieri citavamo quel dato impressionante dell'export giapponese, un più 30%, tutto guidato appunto dalla domanda che arriva dalla Cina, dai paesi dell'Asia. Luca Polazzi, oggi nostro ospite, poi ascolteremo l'intervista con Corrado Passera, numero uno di Banca Intesa San Paolo, ha detto in sostanza, parlando, ragionando della situazione economica, la ripresa è ancora troppo lenta o quasi nulla e non genererà occupazione. Sei d'accordo? Beh, direi proprio di sì. Teniamo conto che a dispetto di una caduta che è stata cumulativamente nei due anni 2008-2009 del 6,3% per il PIL, l'occupazione finora è scesa molto poco, nemmeno la metà di quella variazione, quindi c'è molta produttività da recuperare. Teniamo anche presente che c'è l'equivalente di circa 250.000 persone in cassa integrazione, che significa che se la produzione riprende, le prime persone a essere riassorbite saranno loro, quindi non si genera veramente nuova occupazione, anche se comunque è un sollievo per chi oggi è cassa integrato. È anche per questo che la ripresa difficilmente potrà far presa trovare sostegno nei consumi delle famiglie. Non è un caso che l'indice di fiducia dei consumatori italiani ha perso 7 punti negli ultimi 3 mesi, dopo aver recuperato molto nella seconda metà dell'anno scorso. Allora, un'ultima domanda, Luca Polazzi, riagganciandomi proprio a questa tua ultima considerazione. C'è l'ipotesi che in realtà la frenata che abbiamo visto ieri sui consumi, molto brutto il dato anche perché riguardava i consumi alimentari e della grande distribuzione, che fino adesso avevano tenuto, soprattutto la grande distribuzione, meno 3,5% rispetto a gennaio del 2009, che già era un mese di frenata. La domanda è molto semplice: c'è secondo voi il rischio che dopo una certa euforia nel dire vabbè la crisi fine 2009 è finita, la classe politica spesso lo ripeteva, ci si accorga che la crisi è ancora tutta lì, ben presente, questo genera un effetto scoramento? In realtà, se guardiamo anche i sondaggi d'opinione, la gente è molto preoccupata, quelli condotti per esempio dal Sole 24 Ore in vista delle elezioni regionali, è molto preoccupata e ha ben conscio il fatto che questa crisi durerà ancora a lungo. In termini di livelli bassi di attività economica, di livelli bassi della domanda, di livelli bassi dell'occupazione. Questo non significa che ci sia una lenta risalita, ci sarà questa lenta risalita, però appunto lenta, e quindi la crisi è destinata a durare. Allora, l'effetto scoramento in realtà non lo vedo tanto, perché è già scontato sia dalle famiglie che dalle imprese. Il problema è la capacità di resistenza delle imprese con questi bassi livelli di fatturato e quindi la loro necessità probabilmente di ripensare modelli di business e dimensioni, e per le famiglie si tratta invece di capire, diciamo, come gestire bilanci che anche in quel caso sono stati nettamente ridotti dalla crisi. Per cui tu dici non ci sarà, probabilmente non c'è un effetto scoramento perché non c'era mai stato un effetto illusione, quindi non ti puoi scoraggiare se non ti eri mai così illuso. Devo dire che voi segnalate oggi appunto nella congiuntura flash che comunque le imprese potrebbero essere penalizzate nei prossimi mesi anche dalle condizioni di credito molto selettive. Di questo abbiamo parlato sia con il presidente del banco, del presidente del gruppo Intesa San Paolo, e parleremo tra poco anche con il presidente del Banco Popolare. Mi riferisco chiaramente al settore legato di Intesa San Paolo, Corrado Passera, e a Carlo Frattapasini, presidente appunto del Banco Popolare. Grazie per ora, Luca Polazzi, in collegamento con noi, direttore del Centro Studi Confindustria. Ecco, poi oggi anche un altro esponente, il vice segretario generale e capo economista dell'Ocse, Piercarlo Padoan, nostro ospite più di una volta, ha detto: attenzione, la perdita dei posti di lavoro in Italia è probabile che non sia ancora finita e quindi vada avanti, mentre mancano forme vere di ammortizzatori sociali e politiche per favorire la riallocazione. Vedo che molti ci scrivono, riprendendo anche al 349-238-6666 quello che era stato l'invito di ieri e anche dei giorni scorsi della Presidente Confindustria Marcegaglia alla politica, a occuparsi dei temi veri del paese. Cosa volete che vi dica? Insomma, noi raccontiamo la giornata economico-finanziaria, la settimana, insomma, l'evoluzione. Evidentemente alcuni si muovono su altre dimensioni, su altri mondi. Va bene, andiamo avanti e occupiamoci adesso di Fiat, perché oggi durante l'assemblea degli azionisti della Fiat c'è stata una dura presa di posizione dell'amministratore delegato Sergio Marchionne. Già era intervenuto il presidente della Fiat Montezemolo dicendo: le radici, il cuore sono e saranno in Italia. E Marchionne è intervenuto però per ribadire, insomma, qui si sta operando, queste le parole di Marchionne, contro la Fiat, un tiro al bersaglio, stiamo vivendo un altro gioco pericoloso, un nuovo tiro al bersaglio contro la nostra azienda. Oggi però stiamo vivendo un altro gioco pericoloso, un nuovo tiro al bersaglio contro la nostra azienda. E non mi riferisco soltanto a quello che scrivono i giornali. Nella maggior parte dei casi fanno il loro lavoro, riportano e commentano ciò che succede. Penso piuttosto ad alcune dichiarazioni di esponenti del mondo politico, sindacale e qualche volta, purtroppo, anche imprenditoriale. La FIA non pretende di essere salutata ogni giorno con le fanfare, come è successo quando siamo tornati dall'America con i 2 miliardi di dollari della General Motors o quando il presidente Obama ha annunciato l'accordo con Chrysler. Ma non troviamo giusti nemmeno i fischi gratuiti. Ci piacerebbe vedere un po' di equilibrio nei giudizi. Tra le tante cose che ho sentito dire sulla FIA, ce n'è una che trovo particolarmente ingiusta e riguarda la nostra presunta disattenzione per l'Italia. E non voglio girare intorno alla questione. So bene che molte delle accuse sono legate alla decisione di smettere di costruire automobili a Termini Imerese alla fine del 2011. Vorrei però ripassare con voi la vicenda, perché solo avendo presenti tutti gli elementi si può capire che non è una decisione che è stata presa alla leggera. Non l'avremmo mai fatto se non fosse stato più che necessario, se ci fosse stata una vera alternativa. E poi sempre Sergio Marchionne sulla Fiat e su Termini Imerese ha detto: per evitare i soliti sospetti voglio dire una cosa, sappiamo che i sindacati tra le varie alternative possibili danno la priorità a quelle, per Termini Imerese, a quelle iniziative industriali con una forte vocazione automobilistica, voglio ribadire la disponibilità della Fiat e la collaborazione che la Fiat metterà in campo anche se verrà scelta questa eventualità. Ancora sul tema del dividendo Fiat, Sergio Marchionne ha detto: pagare i dividendi è un atto dovuto, e quindi ha definito ingiuste le accuse fatte alla Fiat sulla distribuzione dei dividendi agli azionisti. Su Termini Imerese è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, che nel corso di un'intervista agli studi di Sky TG24 ha detto su Termini Imerese: beh, in realtà ci sono tante offerte e credo che ne usciremo comunque con un incremento dei lavoratori. Il Presidente del Consiglio ha anche definito l'evasione come mai moralmente accettabile, ha detto: non è mai moralmente accettabile fare evasione fiscale. E di evasione fiscale oggi si è parlato a margine di un ciclo di lezioni sulla legalità organizzato dall'Università Bicocca a Milano, dal Sole 24 Ore e dall'Associazione Libera. Ne parliamo dopo il meteo, perché è intervenuto sull'evasione fiscale, ma anche sulla vicenda Fastweb e Telecom Italia Sparkle, sullo scudo fiscale, un PM come Francesco Greco, procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica di Milano e tra i massimi esperti, lo dico, di reati economico-finanziari. Mandiamo allora la pubblicità, il meteo e poi sentiamo anche Greco sul scudo fiscale, sulla vicenda Telecom Sparkle e Fastweb. Vi dico che la borsa ha chiuso sostanzialmente invariata, poi sarà questo il prossimo tema, più 0,09 non è cosa. Si conferma invece il calo pesante di Unipol, meno 7,60, di Fondiaria meno 5,80 dopo i conti. Bene Parmalat più 3,20, Unicredit più 3,1, Impregilo più 2%. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:34 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare appunto di reati finanziari poi di borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Si diceva di questo ciclo di lezioni organizzato anche dal Sole 24 Ore, oltre che dall'Università Bicocca. È intervenuto oggi il PM Francesco Greco, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Milano, tra i massimi esperti di reati economico-finanziari, ed è, si dice, anche uno dei possibili candidati per la Consob. Ma al di là di questo, Greco, intervistato dalla nostra Raffaella Calandra, ha toccato i temi dello scudo fiscale, ma soprattutto, insomma, dei capitali che se ne vanno, come bloccare la fuga di capitali verso l'estero, e anche della vicina Telecom, Sparkle, Fastweb. Sentiamolo proprio a partire dallo scudo fiscale. Con lo scudo fiscale ad oggi sono rientrati circa 100 miliardi di euro, no? Tutti dicono che sono meno di un terzo dei capitali esportati all'estero. C'è stato un esodo biblico. Se c'è stato questo esodo biblico, vuol dire che l'economia reale e l'economia finanziaria sono marci, sono piene di fatti illeciti. Questi soldi che sono andati all'estero sono fondi neri, sono reati che vengono compiuti per poterli trasportare all'estero, sono, e lo abbiamo visto in tantissime indagini, fondi sottratti alle società, società che hanno denunciato meno utili e quindi ci hanno pagato meno tasse, società che si sono riempite di fatture false per poter mascherare questo trasferimento di soldi, e soldi che sono stati portati all'estero tramite i canali ufficiali del sistema finanziario. Quindi noi abbiamo avuto la cosiddetta economia reale piena di queste schifezze, perché stiamo parlando di 300-400 miliardi di euro, un marcio che poi ha attraversato anche l'economia finanziaria, perché si è dedicata a curare questo esodo biblico. Al mio paese si chiama riciclaggio. A fronte di tutto questo, parafrasando la frase di un tecnico molto di moda che è Mourinho, abbiamo zero titoli, cioè zero processi, zero controlli. Ma dopo lo scudo fiscale, una economia drogata, nel senso che è abituata a portare i soldi all'estero, riesce a uscire dalla tossicodipendenza da fondo nero? Forse ne sarebbero necessarie delle riforme legislative e normative che introducessero delle norme un po' più serie. Il problema però, che secondo me deve allarmare, è il fatto che questa illegalità attraversa gran parte delle società italiane. Perché se noi vediamo che forse la prima, la seconda, la terza società italiana si mette a fare la cosiddetta frode carosello, che normalmente la faceva il rivenditore di auto, peraltro ovviamente con proporzioni grosse, vuol dire che il livello di illegalità ha raggiunto tutti, dal rivenditore di cellulari di Rozzano fino al salotto buono del capitalismo italiano. Questo giudizio, devo dire, molto duro del PM Greco, va detto, hanno ragione alcuni ascoltatori che sottolineano che non tutti i soldi portati all'estero facessero parte dei fondi neri. In moltissimi casi, lo sappiamo, ne abbiamo parlato molte volte, si trattava di evasione fiscale, ma non di fondi neri, che sono un'altra cosa. Di riferimento appunto è più all'impianto accusatorio sulla vicenda Telecom, Sparkle, Fastweb. Ed va anche detto che dopo il rientro dei soldi con lo scudo fiscale, in questo momento, l'abbiamo raccontato in questi giorni, c'è un'attività della Guardia di Finanza che va a colpire non solo San Marino, ma anche tutto un insieme di proprietà di elementi patrimoniali di italiani che risiedono a Monte Carlo, in Gran Bretagna, in altri paesi considerati non paradisi fiscali, la Gran Bretagna non lo è, ma insomma dove alcuni contribuenti italiani vanno o fanno finta di risiedere. Detto ciò, passiamo adesso alla borsa che oggi praticamente chiude con un leggerissimo aumento, più 0,13%, meglio comunque di Parigi, meglio di Francoforte che hanno perso lo 0,3% entrambe e meglio di Londra che ha perso lo 0,4%. E allora la borsa. Dunque, prima di tutto però i dati societari, se no non capiamo cosa è successo oggi sul mercato. Da un lato abbiamo avuto vari conti, abbiamo avuto i conti del Monte dei Paschi, utile 2009 a 220 milioni di euro, nel quarto trimestre però una perdita di 180 milioni di euro, dividendo solo per le azioni di risparmio di un centesimo, vede però un ritorno all'utile anche nel primo trimestre del 2010. Questo per quello che riguarda Monte dei Paschi. Oggi conti anche di Fondiaria SAI, ha chiuso il 2009 in rosso, 390 milioni di euro, però distribuisce comunque il dividendo e lo fa praticamente a 4 centesimi di euro per azione. Ancora per quello che riguarda la perdita del gruppo Unipol, altra società che oggi ha diffuso i conti, siamo a un meno 770 milioni di euro e proposta di un aumento di capitale da 500 milioni di euro anche con warrant. Infine concludo con i dati di bilancio di oggi, il gruppo Saras, qui c'è un po' di polemica, la riprende l'ANSA. Perché? Perché Saras, che è la società della famiglia Moratti, la finanziaria petrolifera, non distribuirà alcun dividendo agli azionisti e quindi l'utile non verrà distribuito, ma l'ANSA fa notare che la famiglia Moratti, che ha il 62% del capitale, si consolerà con le retribuzioni percepite dai quattro componenti della famiglia che siedono in consiglio. In totale Gianmarco Moratti, Massimo Moratti e gli altri due componenti avranno compensi per quasi 7 milioni di euro. Questo quanto riporta oggi l'ANSA. E allora la borsa, Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Le reazioni sul mercato, soprattutto su Unipol e Fondiaria, insomma netto giudizio, Unipol perde il 7,6%, Fondiaria il 6%. Paolo. Sì, esattamente, i due titoli sono stati i peggiori della seduta, per Unipol ovviamente fin dall'avvio, dato che i conti erano arrivati ieri a mercato chiuso, il titolo non riusciva a fare prezzo inizialmente, come ricordavi tu, ha perso alla fine il 7,65%, a deludere il mercato è stato soprattutto l'annuncio a sorpresa, che non era atteso, proprio dell'aumento di capitale da 500 milioni. Il management ha spiegato che l'operazione propedeutica al lancio e la presentazione del nuovo piano industriale che sarà presentato in maggio, ma soprattutto molti analisti si chiedevano allora perché l'aumento di capitale sia stato annunciato prima della presentazione del piano. La reazione quindi è stata negativa e il titolo è stato sommerso dalle vendite fin dall'avvio. Ovviamente dopo i conti ha perso terreno anche Fondiaria SAI, i risultati sono stati peggiori delle attese degli analisti e non è bastato l'ottimismo del management che si è detto sicuro di una ripresa dei risultati nel corso del 2010. Alla fine Fondiaria SAI è stato il secondo peggior titolo del paniere principale, ha perso quasi 6%, per la precisione il 5,97% a 11,34 euro e ha trascinato al ribasso anche tutti gli altri titoli della galassia di Gresti. Tutta un'altra giornata invece, Monte dei Paschi, visto che citavamo i dati di bilancio, meno 2,7, anch'esso appunto la difficoltà dell'ultimo trimestre soprattutto pesa, Fiat meno 2,21, Finmeccanica meno 1,3, Exor meno 1,20, Tenaris meno 1%, ebbene Parmalat più 3,35%, Unicredit più 3%, di Impregilo già ieri abbiamo detto comunque più 1,80, Geox più 1%, Banco Popolare più 1%, Parmalat e Unicredit. Per quanto riguarda Parmalat è stata messa oggi sotto i riflettori fattori da un report degli analisti di Morgan Stanley che hanno confermato il giudizio overweight, ha alzato il target price a 2,4 euro da 1,7, Parmalat oggi ha chiuso in rialzo del 3,35% a 2,065 euro. Secondo gli analisti Parmalat è una società che conviene acquistare soprattutto perché la sua valutazione oggi è tra le più convenienti d'Europa nel comparto alimentare. Inoltre gli analisti puntano su una distribuzione maggiore di dividendi nei prossimi anni, utilizzando anche la liquidità da 1,4 miliardi che la società ha in cassa. E inoltre gli analisti hanno anche appunto alzato le stime sull'utile per azione, quindi prevedono un miglioramento della redditività della compagnia per quanto riguarda il 2010. Per quanto riguarda invece Unicredit, che ha guadagnato il 2,98% oggi in borsa, non ci sono motivi particolari. È stata rilanciata sul mercato una notizia che della settimana scorsa, che non era stata molto messa in luce, che è quello del fatto che la Banca Centrale Libica è diventato il primo azionista della banca, superando di pochissimo la Fondazione Cari Verona in seguito all'aggiornamento delle quote dopo l'aumento di capitale. Inoltre ovviamente il titolo rimane sotto i riflettori in vista di questa riorganizzazione, la cosiddetta banca unica, e per cui sono al lavoro i manager dell'istituto e per cui le prossime settimane saranno decisive. Io starei più cauto sulla banca unica, mi sembra che per essere buoni qualche resistenza interna ci sia, le fondazioni bancarie, di questo parleremo fra un paio di minuti con Carlo Frattapasini, presidente del gruppo Banco Popolare, che oggi è chiuso in rialzo dell'1%, e poi nella seconda ora con Corrado Passera, amministratore delegato di Banca Intesa. Hai ragione a citare le vicende che riguardano appunto anche le quote societarie, e io aggiungo che hanno ragione anche gli ascoltatori a ricordare che su Impregilo, oltre ai conti, c'è anche la vicenda City Life, il dossier City Life, che sembra fare passi in avanti. Grazie a Paolo Paronetto e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Colle sulle 24 ore, i migliori e peggiori in assoluto. Unipol è tra i peggiori in assoluto, anche sulle privilegio, meno 7,90. CHL è tra i migliori, più 8,80, Poltrona Frau più 7,35, Ferrovie Nord Milano più 6,80, Basic Net più 5,50%. Adesso andiamo ad ascoltare le informazioni sul traffico e poi parliamo di banche e soprattutto di rapporto tra banche e piccolissime e medie imprese. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, come promesso, iniziamo a parlare con le banche del loro rapporto con il territorio. Il nostro ospite negli studi qui a Radio 24 a Taormina per il Forum della Confagricoltura, il presidente del gruppo Banco Popolare, Carlo Frattapasini. Buonasera. Buonasera. Allora, Banco Popolare, che lo ricordo, è l'unione di tre banche popolari, la Popolare Verona, la Novara e poi l'ultimo ingresso, la Lodi, con non poche difficoltà, ma di questo già altre volte abbiamo parlato per via di quello che era stata l'eredità della gestione Fiorani. Andiamo sul rapporto banca e territorio, però prima di tutto un commento a questo monito arrivato oggi dalla Banca d'Italia. Per carità, nulla di nuovo, ma ha sorpreso alcuni osservatori vedere che Mario Draghi torna sulla poca trasparenza del sistema bancario nei confronti dei clienti intesi come privati, cittadini e imprese. Certamente dobbiamo tutti procedere in questa direzione, forse non aiuta anche la complessità della normativa e delle procedure a cui si è costretti a rispondere con montagne di carte e di firme, piuttosto che poche regole, no, che assicurino la sostanza della correttezza della relazione tra banca e cliente. Restiamo alle normative, perché nel rapporto banche piccole imprese qualcosa si è mosso, gli sforzi sono stati fatti, li abbiamo raccontati, i vostri, degli altri grandi gruppi bancari del paese. Per carità, nessuno vuole giocare al tanto peggio, tanto meglio, però oggettivamente, insomma, non solo dalle segnalazioni che noi riceviamo, una vischiosità nel credito è rimasta. Io posso capire che quando si vedono certi bilanci complice la crisi sia anche più difficile esporsi, però delle volte il coraggio del banchiere è proprio il coraggio di dare del credito anche morale oltre che economico nei momenti di difficoltà. Vorrei capire se su questo state prendendo un po' più di coraggio e se ritiene che l'eventuale arrivo di Basilea 3, cioè di nuove regole, rating, voti, criteri europei su come si deve dare credito, su come si fa valutare un'azienda nella sua bontà e affidabilità, su quanti soldi devi mettere da parte per dare linea di credito, se queste regole in questo momento non rischiano di fare più male che bene. Sotto il primo profilo non mi pare che ci sia, diciamo, una vischiosità ingiustificata o una difficoltà di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. Lo stesso andamento, diciamo, degli aggregati dimostra che pur in presenza di una forte riduzione dei fatturati, di una riduzione delle scorte, di una riduzione degli investimenti, diciamo, il sostegno è rimasto inalterato e addirittura è cresciuto per quello che riguarda sia gli impieghi nel loro complesso da parte del sistema bancario, sia in modo particolare da parte della categoria delle banche popolari. Quindi credo che ci sia, personalmente sono in un organo come Consiglio di Sorveglianza, che è un organo di controllo e di indirizzo strategico. Devo dire che se dovessi, dal punto di vista, diciamo, della tecnica bancaria, verificare i sì e i no della nostra banca, probabilmente dovrei censurare molti più sì che no in questo periodo, ma molti più sì che no. Cioè siete più laschi che... Credo che ci sia nei confronti delle piccole e medie imprese un atteggiamento di assoluta comprensione, diciamo, per il momento. Anche noi viviamo nel mondo, no? Credo che se fossimo fiscalmente pronti a controllare, no, le varie voci dei bilanci che arrivano in questi mesi, forse qualche decisione andrebbe quantomeno rimeditata. Quindi credo che c'è uno sforzo con gli imprenditori, con i professionisti, soprattutto laddove l'imprenditore dimostra di credere e di mettere il proprio patrimonio personale o parte della propria ricchezza al servizio della propria azienda, non manca l'accompagnamento delle banche. Diverso è il caso nel cui si pretende magari di mantenere o aumentare l'accompagnamento in iniziative nei quali primo, diciamo, a non voler rischiare il proprio patrimonio è l'imprenditore. Credo che sia giusto e corretto, oppure laddove ci sono aziende che sono davvero decotte, perché non dimentichiamo che abbiamo settori investiti in modo molto pesante dalla crisi. Ma Basilea 3, è il caso di arrivare a nuove regole, come se il mondo, insomma, non fosse stato attraversato da uno tsunami finanziario, continuare imperterriti a dire vabbè, adesso ti dico io dall'alto, da Bruxelles, piuttosto che da Londra o Francoforte, come si fa a dare credito e non tornare a un livello, mi passi il termine, un po' più umano e meno da IAS nel concedere credito? IAS sono i criteri che regolano, insomma, le varie regole di Basilea. Personalmente ho un'idea, cioè che il vero problema che ha causato la crisi è stato che a un certo punto si sono trovati dei meccanismi per cui si poteva aumentare il rischio di credito senza che fosse fronteggiato da del patrimonio. Il problema non è tanto aumentare la quantità e la percentuale di patrimonio a fronte del rischio del credito, ma piuttosto di evitare che ci siano rischi di credito che non siano in effetti fronteggiati da alcun patrimonio. E tutte le banche che sono saltate sono banche che avevano coefficienti patrimoniali apparenti di assoluta eccellenza, anche maggiori di quelli rinforzati che vorrebbe introdurre Basilea 3. Forse qualche riflessione va fatta non solo sul timing, che evidentemente può essere assolutamente prociclico, ma anche sulla sostanza delle soluzioni. Ancora domande che poniamo spesso quando parliamo con i banchieri: siete convinti anche voi che forse far ruotare troppi direttori di filiale sul territorio è stato un errore? Traduco: la banca universale avrà sicuramente grossi vantaggi, avrà avuto, e voi siete, diciamo, solo l'ultimo dei gruppi, penso Intesa, Unicredit prima di voi, che sono nati, diciamo, dalla fusione di grandissimi e anche storici gruppi bancari italiani. Voi appunto avete fatto un'aggregazione di banche popolari, siete arrivati ad essere il quarto gruppo bancario del paese. Le chiedo, in questa crescita dimensionale, quanti errori sono stati fatti? Perché lì torniamo anche al ruolo dei direttori di filiale, che usavo come pretesto e come esempio di quando una banca, guardando troppo in alto, perde di vista, insomma, quello che capita a livello terreno. Indubbiamente il tema dei direttori di filiale non è la causa, ma forse è il sintomo di un certo tipo di malattia, di un certo tipo di politica. Certamente si è pensato tutti, chi più chi meno, a delle filiali che sostanzialmente funzionavano come punti di raccolta del denaro e di vendita di prodotti finanziari, e nei quali, diciamo, si affievoliva del tutto l'attività invece creditizia, che veniva gestita sostanzialmente sempre dall'alto, in modo centralizzato ed automatizzato. Questa è stata anche la spinta che veniva proprio anche da innovazioni di tipo normativo e che tutti, chi più chi meno, si è seguito. Questo ha comportato anche il fatto che probabilmente si potevano far turnare più facilmente i direttori di filiale, proprio perché, non essendo deputati all'attività creditizia ma un'attività di vendita, in alcuni casi conviene che la rete venga spesso rinvigorita piuttosto che conosca a fondo le necessità creditizie dei nostri clienti. Beh, insomma, l'importante è poi che a questo punto si riesca, sì, certo, a farli anche girare, ma a fargli conoscere il territorio. Siamo veramente in chiusura. Io ringrazio, quindi, visto che deve anche scappare, il presidente del gruppo e del Banco Popolare, Carlo Fratta Pasini. Vedo, come sempre avviene in questi casi, che ci sono delle critiche da parte degli ascoltatori che dicono che le banche stanno continuando a stringere sul credito. Molti contestano, insomma, anche alcune dichiarazioni. Vabbè, fa parte anche del programma. Grazie, presidente del Banco Popolare, Carlo Fratta Pasini. Adesso c'è il GR. Vedo però un flash d'agenzia, ve lo do subito. Per quello che riguarda le generali, la lista dei candidati che viene espressa dal comitato lista di Mediobanca slitta alla prossima settimana. Questo è un flash d'agenzia appena battuto per quello che riguarda la proposta di Mediobanca come su chi sarà il futuro presidente delle generali. 349-238-6666 per i vostri sms. Dopo la diretta, Corrado Passera, numero uno di dopo GR, scusatemi, Corrado Passera, numero uno di Banca Intesa, sempre per ragionare di imprese e banche. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Come promesso, adesso ascolteremo anche l'intervista che abbiamo realizzato poco fa con Corrado Passera, numero uno di Banca Intesa. Ripeto, che si fosse permesso in collegamento, vedo anche che ce lo chiedete al 349-238-6666. Per ora l'unica nota che è uscita da Mediobanca per quello che riguarda la nomina, le indicazioni su chi dovrebbe essere il prossimo presidente, il prossimo vertice di Mediobanca e delle generali, è che l'iter si concluderà a metà della prossima settimana. Detto ciò, vedo anche alcuni ascoltatori che criticano il fatto che le banche continuano a tenere i cordoni della borsa stretti. Ne abbiamo parlato con Corrado Passera, ospite oggi al forum di Confagricoltura. Siamo partiti però dalla proposta politica arrivata ieri da Confagricoltura, quella di creare una centrale di acquisto ma anche di vendita, ossia superare il problema delle dimensioni dei piccoli imprenditori agricoli, avendo una centrale acquisti a monte e poi anche un soggetto simile a valle che possa dialogare con la grande distribuzione. Abbiamo chiesto a Corrado Passera qual è il ruolo che vede per le banche, se devono partecipare attivamente a questa nuova struttura, visto che tra l'altro proprio il gruppo Intesa San Paolo a fine 2009 ha allargato di un altro miliardo i fondi a disposizione del mondo agricolo. Una serie di proposte sicuramente interessanti e da approfondire. L'agricoltura in generale, qui non facciamo distinzioni tra associazioni, è un mondo di micro aziende molto spesso, fortunatamente se ne sono create anche di medio grandi e di grande successo. Uno dei modi, non l'unico, per supplire alle debolezze che tante piccole aziende hanno è quello di favorire gli acquisti in comune e le vendite in comune. Non è un meccanismo facile da realizzare. A livello di singoli prodotti e di singole aree ci sono dei casi chiari di grande successo. Guardi per esempio cosa sono riusciti a fare i 20.000 produttori di mele in Trentino Alto Adige grazie alle organizzazioni che si sono date. Quindi la strada del consorziarsi, la strada del mettersi insieme è uno dei modi per supplire alle debolezze della piccola azienda agricola. Bisogna però poi fare anche di più, bisogna che si creino sempre di più aziende di dimensione sufficiente a poter investire in innovazione e poter quindi poi accedere ai mercati internazionali con maggiore forza di quello che le piccole possono fare da sole. E qui sia le banche, sia il fisco, sia il legislatore possono fare delle cose importanti. Però va seguito con interesse un tentativo di dare subito sollievo a un settore che certamente in questo momento, pur continuando a crescere, mostra risultati abbastanza critici. E voi come da invito intendete o avete comunque valutato di partecipare a questo percorso? No, così chiudiamo la parte sull'agricoltura. Beh, no, questa iniziativa di per sé non ha bisogno né di soci né di capitale. Noi comunque, come diceva lei, nel momento anche più difficile della crisi abbiamo aumentato di un ulteriore miliardo la dotazione per interventi a favore di questo settore, e questo noi continueremo a fare. Restiamo in tema di piccole e medie imprese, poi magari percorso dal basso verso l'alto arriviamo anche ai temi greci, alle notizie dei giornali di oggi. Cioè parliamo di tutto. Parliamo di tutto, ma in un tempo molto molto breve. Ah, ecco. Restiamo sul tema delle piccole e medie imprese, perché voi, insomma, come dimostra anche il dato di bilancio dello scorso 19 marzo, un utile che va a 2,8 miliardi, un 9,9% di aumento se non ricordo male, con un dividendo di 8 centesimi che viene distribuito, avete chiuso il 2009 appunto con una crescita. Resta la sensazione, non solo da parte vostra, che ancora nel rapporto con la piccola e media impresa possa conoscere qualche forma di vischiosità. Ne parlammo un mese fa con il suo direttore generale, uno dei suoi direttori generali, Gaetano Miciche, per quello che riguarda soprattutto il rapporto con le grandi imprese, ma non solo. Vorrei capire se Euribor permettendo, che mi sembra comunque sempre in leggero calo a tre mesi, il rapporto con le PMI stia uscendo da questa vischiosità non sempre registrabile, ma che noi spesso sentiamo come quasi lamentela e segnalazione che ci arriva più dalle viscere che non dal dato macroeconomico statistico. Beh, lì stiamo parlando della cosa più importante in termini di rapporti che la banca ha, il rapporto col mondo delle piccole e medie imprese. Stiamo parlando nel nostro caso di oltre 1 milione di rapporti. Siccome chiaramente c'è stato un momento di difficoltà per l'intero paese, noi abbiamo voluto fare un giro d'Italia andando a incontrare in tutte le unioni industriali, in tutte le camere di commercio, gli imprenditori soprattutto di questa dimensione, mettendoci la faccia, andando a dire quello che stiamo facendo e andando a chiedere loro che cosa potevamo fare di più. È chiaro che c'è una fascia di piccole e medie imprese che sono in grandissima difficoltà e che non hanno i numeri per avere credito. E questo guai a pensare che il credito sia qualcosa di garantibile a chiunque. La grande crisi che stiamo passando è dovuta anche al fatto che in alcuni paesi del mondo è stato fatto credito a chi credito non doveva ricevere. Quindi noi come banca abbiamo la grandissima responsabilità, spesso difficile da rispettare, di non dare credito dove non ci sono i presupposti. Però questo è veramente un caso che riguarda una percentuale molto bassa della popolazione delle aziende italiane, e se guardiamo l'andamento del credito nel suo insieme, soprattutto col mondo delle piccole e medie, vediamo che di anno in anno non solo non è diminuito, ma se guardiamo le piccolissime addirittura di anno in anno è leggermente aumentato. Nel mondo dell'agricoltura è aumentato chiaramente. Certo che in una situazione in cui i fatturati calano, la produzione crolla, le esportazioni crollano, gli investimenti spariscono, è chiaro che il credito di per sé dovrebbe automaticamente diminuire. Il fatto che non sia diminuito mediamente significa che comunque c'è stato un grande sforzo di star vicino all'economia anche in una fase molto difficile. Ma lei teme che le cose possano peggiorare se veramente si deciderà di implementare, di rendere operativo il cosiddetto Basilea 3, cioè un insieme, lo spiego per chi ne ascolta, di meccanismi che vanno a giudicare la qualità di chi chiede un credito, un prestito a una banca sulla base di, adesso la dico in maniera un po' semplice, dei parametri che dovrebbero essere oggettivi a livello europeo. In realtà poi spesso snaturano, questa è l'accusa, quella che è la personalità dell'impresa, la storia biografica dell'imprenditore, tutto un insieme di dati che tu puoi conoscere solo sul territorio non applicando i cosiddetti IAS di Basilea 2 o quelli che saranno di Basilea 3. Ha senso farlo adesso quando il mondo è completamente cambiato e la stessa Germania ha un deficit per esempio del 5% del PIL, che nessuno l'avrebbe mai detto 2 anni fa? Tema complesso e da non sottovalutare da molti punti di vista. Dal punto di vista della valutazione delle aziende è chiaro che noi mancheremmo al nostro ruolo se non considerassimo tutti gli elementi che possono portare alla valutazione di credito. Però attenzione, la valutazione di credito deve comunque essere basata su risultati e bilanci, su prospettive e su garanzie. Questa è la regola del gioco e bisogna fare in modo che i bilanci siano ovviamente i più presentabili possibili, i piani siano i più convincenti possibili e comunque, soprattutto per l'attività di finanziamento a lungo termine, ci sia un adeguato livello di garanzia. Questo non è il Basilea 2 o Basilea 3, è gestione del credito. Basilea 2 e Basilea 3 soprattutto potrebbero portare a un aggravio eccessivo sul capitale delle banche del consumo di capitale che fare credito comporta. Cioè vi potrebbe obbligare, se ben capito, a dover mettere da parte più capitale a fronte del credito. E quindi naturalmente per talune banche si potrebbe arrivare a un livello che, non essendoci più capitale, non si può fare più credito. E naturalmente l'aumento del capitale utilizzato in parte dipende dal rating, cioè dalla qualità delle aziende affidate, che non può che peggiorare in una fase come questa, e dall'altra parte da quanto capitale viene chiesto a fronte del credito. Io credo che i regolatori avranno la saggezza di non imporre nel momento più basso della crisi un livello di capitalizzazione da periodi ricchi. Probabilmente indicheranno una strada da percorrere, da raggiungere, ma certamente non porteranno a delle decisioni drastiche tali da bloccare l'attività di credito. Questa è una mia assunzione assoluta e sono certo che così sarà. Questa è la prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato un paio di ore fa con Corrado Passera, numero uno di Banca Intesa. Il traffico, la seconda parte poi dell'intervista, abbiamo parlato anche e soprattutto di fondazioni bancarie, dei nuovi assetti della finanza. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Focus Economia, con l'ultima parte di Focus Economia e con voi Sebastiano Barisoni, quindi la seconda parte dell'intervista a Corrado Passera, numero uno di Banca Intesa. Siamo partiti dal ruolo delle fondazioni bancarie, perché non solo in Banca Intesa San Paolo, ma anche e soprattutto nella vicenda Unicredito, senza voler fare poi dei riferimenti diretti, insomma, molti osservatori hanno fatto notare come le fondazioni bancarie non stiano in questo momento esprimendo solo la stabilità e l'assetto societario, ma stiano anche reinterpretando il loro ruolo come di maggiore emanazione del territorio. Ecco, su questo nuovo ruolo abbiamo posto la domanda a Corrado Passera. Ma guardi, i grandi gruppi che si è riusciti a creare anche nel nostro paese, con risultati credo positivi, si sono stati creati grazie al ruolo delle fondazioni, che hanno rinunciato, come previsto dalla legge, al controllo delle banche, ma poi hanno giocato un ruolo di investitori di lungo termine molto positivo in questi anni. Quindi, per quello che è la mia esperienza, io posso solo dire che senza le fondazioni non ci sarebbero le belle grandi banche che sono state create. Poi non bisogna confondere il momento topico del rinnovo dei consigli e delle assemblee, dove gli azionisti in generale, siano queste fondazioni o di altro genere, si mettono d'accordo, decidono, in certi casi discutono tra di loro su come fare le liste, ma questo è nella fisiologia delle cose. Poi c'è il terzo aspetto, che è quello che diceva lei. Le fondazioni, o talune fondazioni, come rappresentanti all'interno di grandi banche di interessi più legati al territorio. Entro certi limiti questo è un ruolo utile da svolgere, perché poi noi vogliamo mantenere all'interno della nostra gestione della banca, noi addirittura abbiamo scelto di mantenere le banche locali, quindi di avere non solo una dialettica, ma proprio una collaborazione con le fondazioni locali, è qualcosa che noi cerchiamo. Quindi che ci siano delle entità che all'interno di una politica generale sappiano, vogliano, spingano per difendere interessi locali, di per sé non è un problema. L'importante è che non andiamo a perdere quello che abbiamo costruito, cioè, prenda nel nostro caso, noi vogliamo essere banca del territorio e quindi banche locali, però non vogliamo essere soltanto la somma di tante banche locali, vogliamo anche essere una grande forte banca nazionale, una grande forte banca internazionale, e quindi è compito del management e compito della saggezza di questi azionisti di saper non mai far perdere quanto c'è di vantaggio nell'essere grande banca unica, che può dare cose che la piccola banca locale non potrebbe mai dare, ma nello stesso tempo senza perdere un radicamento locale. Quindi, se ho ben capito, insomma, un gruppo bancario non è solo la somma delle varie entità che è molto di più, e gli azionisti devono svolgere anche questo ruolo complessivo e non solo come rappresentanti di una parte. Nel nostro caso sta succedendo proprio così, cioè che questa doppia identità, che è molto valida per la banca, sia sempre rispettata. Ho ancora due rapide domande per lei. Una cosa però su questo, visto che è un tema su cui ci scrivono spessissimo: farete ruotare meno i direttori delle filiali sul territorio? Ce lo chiedono spessissimo, perché la conoscenza, per tenere assieme, diciamo, un'idea di banca universale, ma anche di conoscenza capillare, quando la crisi diventa, mi passi il termine, un po' più bastarda, cioè vischiosa, fa meno notizia, ma è forse anche per questo che diventa più pericolosa, la conoscenza in loco diventa fondamentale, li fate girare di meno i direttori? Allora, la risposta è sì. anche perché siamo a valle dai tre anni della fusione, che di per sé ha comportato grandi riorganizzazioni all'interno della banca e quindi anche a grandi passaggi di responsabilità all'interno. Nello stesso tempo non dobbiamo dare un valore assoluto alla stabilità e costanza di presenza, prima di tutto perché c'è un valore nel premiare i direttori capaci che devono andare a prendere responsabilità maggiori, e poi perché c'è un grande valore nel portare da altrove esperienze che non si fare all'interno. Quindi bisogna mettere insieme stabilità per non dover cambiare troppo spesso interlocutore, però guai se una grande banca non fa ruotare, quindi non fa girare competenze ed esperienze, e soprattutto blocca le persone a un'unica realtà senza farli salire e farli crescere. Sì, sarà a noi però l'idea del direttore di filiale, un po' come il maresciallo dei carabinieri, in certe realtà non dispiaceva, e soprattutto, ripeto, questo, con quello che abbiamo visto. Guardi che in tutte le banche, anche nei decenni passati, il tema della rotazione periodica c'è sempre stata, e soprattutto adesso, dove il direttore di una filiale deve essere più che altro il crocevia di servizi ed apporti specialistici che da altre parti del gruppo può venire, questo tema del direttore di filiale che tutto deve sapere e soltanto lui deve avere come interlocutore cliente è in gran parte superato. Certo, non bisogna esagerare per rendere difficile la vita dei clienti, per cui sicuramente maggiore stabilità, però guai a non rendersi conto che il mondo è molto cambiato anche in termini di complessità e di varietà dei servizi che le banche forniscono. Allora, rapidamente andiamo in conclusione. Vicenda Generali, la osservate da partecipata o con partecipazione? La osserviamo. Da partecipata, almeno, visto che le Generali hanno, se non ricordo male, il 5% di Intesa San Paolo. Monito del governatore della Banca d'Italia oggi, monito, accusa secondo alcuni giornali, c'è poca trasparenza nel sistema bancario. Voi siete alla vigilia di un rinnovo del presidente dell'associazione, vedremo chi sarà. Anche qui, se lei ha una preferenza ce lo dica, la accogliamo con piacere. Se non vuole dirci, lo accogliamo con piacere anche questo. Però come mai secondo lei Draghi è tornato sulla trasparenza del sistema bancario? Draghi, come tutti i banchieri centrali, come tutte le autorità che presiedono al funzionamento dei mercati, soprattutto dei servizi finanziari, devono tornare e continueranno, e lo faranno per tanti anni ancora, su questo tema. È uno sforzo senza fine quello di voler migliorare la comprensibilità dei prodotti, che per definizione anche qui sono più complicati di quelli di un tempo. Dobbiamo far di più, secondo me si è fatto molto di più, noi stiamo lavorando anche col mondo delle associazioni dei consumatori per andare in questa direzione. Sappiamo quanto può essere sbagliato e controproducente l'effetto di prodotti che non vengono capiti consciamente fin dall'inizio da parte dei clienti. Ci sono regolamentazioni forti che da una parte assicurano regole forti come la MiFID, ma dall'altra parte anche aggraviano in termini di tipo e quantità di informazioni da dare. È un lavoro grosso questo del migliorare la trasparenza. Noi lo consideriamo uno degli elementi differenzianti e competitivi di una banca che ci crede. Alla presidenza dell'ABI, meglio un accento toscano, lombardo, bergamasco? No, adesso stanno lavorando i saggi, si è passati attraverso una procedura, mi sembra molto molto molto trasparente, visto che parliamo di trasparenza, molto molto democratica. In ogni caso l'ABI, nell'intenzione di tutti, deve rimanere saldamente coesa. Abbiamo la fortuna di poter scegliere tra due persone eccellenti e questo direi che è una bella fortuna. Si riferisce tra l'attuale presidente Faissola e il candidato Mussa, immagino. Sono i due candidati che oggi ci sono sul tavolo. Avevo letto anche di Ponzellini, ma immagino che fossero indiscrezioni cattive dei miei colleghi. Invece un'ultima domanda seria riguarda la Grecia. Chiaro che non voglio un giudizio, diciamo, complessivo, anche perché la dinamica è molto politica, l'abbiamo visto in questi giorni. Però secondo lei, da banchiere, il rischio sistemico più volte evocato e su cui a mio avviso alcuni hanno anche speculato e quindi sperato che si realizzasse, viene evitato? Oggi l'euro è tornato leggermente a quota 1,43 sul franco svizzero, a 1,34 sul dollaro, insomma non sono grandi movimenti, ma mi interessa capire se vedete allontanarsi il rischio sistemico, visto che lei, se non ricordo male, qualche giorno fa mise in guardia proprio sulla lunghezza e quindi pervicacia anche di questa fase di uscita dalla crisi. Allora, a me di avere un euro un po' debolino mi va solo bene. 1,33. Ecco, per cui non è che auspico rafforzamenti particolari. Certamente bisognava e bisogna risolvere la crisi greca, perché l'Europa deve comunque dimostrare di saper passare attraverso queste crisi che possono esserci, ce ne potranno essere anche in futuro. La prima risposta deve essere della Grecia, perché se un paese non aiuta se stesso non può chiedere di essere aiutato. È successo anche a noi in Italia nei primi anni 90 e la risposta è stata adeguata e forte. Naturalmente, secondo me, l'Europa deve giocare un ruolo. Sono contento che sia stata trovata questa formula degli interventi bilaterali ma coordinati, insomma, per salvare una posizione che ho trovato estrema da parte della Germania. E non c'è ragione di non utilizzare anche i fondi del Fondo Monetario, visto che tutti ne siamo parte, e quindi non si capisce perché non dovremmo utilizzarla anche in paesi come quelli europei. Questa è l'intervista che abbiamo realizzato nel pomeriggio negli studi della 24 qui a Taormina con Corrado Passera, amministratore delegato del gruppo Intesa San Paolo. Un flash sulle generali: poco fa ha parlato il ministro Tremonti, ha detto se le generali continueranno ad essere amministrate in questo modo è positivo per il paese. Non c'è mai stato nessun attivismo del Ministero del Tesoro sulle banche e le assicurazioni. Ed era veramente l'ultima notizia. Non mi resta che ringraziare Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Paolo Corleoni e Pietro Lacorte e Davide Cioccia per l'assistenza tecnica e in regia. Da Sebastiano Berisoni a voi tutti in ascolto l'augurio di un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.